just a poor boy, though my story is seldom told. I have squandered my resistance for a pocket full of mumbles, such are promises. All lies and jest, still the man hears what he wants to hear and disregards the rest. When I left my home for my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railway station, landscape. Seeking out the poorer quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lie-la-lie, lie-la-lie, lie-la-lie. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on 7th Avenue. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. La la la la la la la. Then I'm laying out my winter clothes and wishing I was gone, going home, where the New York City winters are bleeding me. And a fighter by his train, and he carries the reminders of every glove that laid him down or cut him till he cried out in his anger and his shame, I am leaving, I am leaving, but the fighter still remains. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. E se il brano precedente non aveva alcuna necessità di essere presentato, cosa che in effetti è andato via così, beh, ve lo dico adesso di che si trattava, per quegli sbadati che sono entrati nella, o per gli ultimi, quelli che sono entrati da poco nel mondo del rock. No, beh, questa era quella, era I Don't Want to Know di Fleetwood Mac, una band nata negli anni 60 in Inghilterra che si è poi trasferita in California nei primi anni 70 e che con questo Rumours nel 1977 ha creato un'opera d'arte, un caso eccezionale, tant'è che questo Rumours è diventato il disco pop rock più venduto di tutti i tempi, 30 milioni di copie, pensate un po', 30 milioni di copie. Ecco, quel disco, Rumours del 1977, che tra l'altro ha visto una riedizione recentemente con outtakes, alternative takes, eccetera, eccetera, diciamo che è comunque, nonostante si tratti, e non c'è dubbio su questo, di un disco di musica pop e rock, un po' per le chitarre finger picking come quella che stiamo ascoltando in sottofondo, che sapete di chi è, un po' per certe sonorità, atmosfere e anche arrangiamenti, insomma, profuma in qualche maniera di folk e country music. Questa era una cosa piuttosto frequente negli anni 70 e fine anni 60, questa canzone, insomma, del duo Simon & Garfunkel è altrettanto esplicativa di ciò che volevo dire. E si va avanti, anzi si torna indietro, dagli Stati Uniti di Simon & Garfunkel torniamo indietro verso l'Inghilterra di quella che fu dei Fleetwood Mac, anzi ce ne andiamo in Scozia, vediamo se lo riconoscete. If I listen long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Canzone di Tim Hardin, qui ripresa dal bravo Rod Stewart, una canzone che ha avuto molti trattamenti e questo è uno dei migliori. Qui siamo proprio negli anni 70, che anno era? Fatemi dare un'occhiata. 1971, uscito dal disco Every Picture Tells a Story, del maggio del 1971, era Rod Stewart, anzi Lord Rod Stewart. Reason to Believe, Reason to Believe era Rod Stewart, era decisamente countryggiante, no? Ma andiamo ancora più indietro, no, in realtà non andiamo indietro, andiamo avanti, perché il disco che vado a presentarvi è stato registrato nel 1996, ma trattasi di una dozzina di canzoni che appartengono al passato più remoto, agli anni 40 e primi anni 50. Hank Williams! Se Tim Hardin era forte forte a scrivere canzoni, forse Hank Williams ancora di più. Hank Williams, ascoltiamo Hank Williams Senior, Junior e anche Third. Un disco che vi ho già presentato, che è una sorta di gioco ben riuscito. Sì, perché si tratta di un lavoro di sovraincisioni delle tre voci e che ha permesso di produrre un disco con le tre generazioni di Hank Williams. Un disco aperto da una canzone bellissima, come d'altronde da gran parte del repertorio di Hank Williams. Una canzone, quella di apertura, è una canzone bellissima a partire dal titolo I'll Never Get Out of This World Alive. Non uscirò da questo mondo vivo, no. Come tutti gli altri. Three Hanks. Now you're looking at a man that's getting kind of mad. I've had a lot of luck, but it's all been bad. No matter how I struggle and strive, I'll never get out of this world alive. My fishing pole's broke, the creek is full of wearing all the time are full of holes and nails. And brother, it was stepped on a worn out dime. I bet a dollar I could tell you if it was heads or tails. I ain't gonna worry wrinkles in my brow, 'cause nothing's ever gonna be alright no how. No matter how I struggle and strive, I'll never get out of this world alive. I'll never, never, never, I'll never get out of this world alive. Hey! Non uno, non due, ma addirittura tre Williams. Hank Williams Senior, Hank Williams Junior, Hank Williams Third. Well, if you wanna drive a big limousine, about the longest one you ever seen, the tall, tall trees and all the water in the seas, 'cause I'm a fool, fool, fool for you. Well, if you wanna own a great big mansion, yes, I'll give it my utmost attention. I'll buy you tall, tall trees and all the waters in the seas, 'cause I'm a fool, fool, fool for you. Yes, I'm a fool for you. It may take a while, but I'll prove it's true. Well, if it's loving you want, I've got it. And if it's money you want, I'll get it. I'll buy you tall, tall trees and all the waters in the seas, 'cause I'm a fool, fool, fool for you. Take a trip across the ocean, yes, we'll travel any place you take a notion. I'll buy you tall, tall trees and all the waters in the seas, 'cause I'm a fool, fool, fool for you. Now if you wanna own a great big mansion, yes, I'll give it my utmost attention. I'll buy you tall, tall trees and all the waters in the seas, 'cause I'm a fool, fool, fool for you. Yes, I'm a fool over you. Take me time, but I'll prove it's true. Well, if it's loving you want, well, I've got it. And if it's money you need, I'll get it. I'll buy you tall, tall trees and all the waters in the seas, 'cause I'm a fool, fool, fool for you. Yes, I'm a fool. Take me time, but I'll prove it's true. Well, if it's loving you want, I've got it. And if it's money you need, I'll go get it. I'll buy you tall, tall trees and all the waters in the seas, 'cause I'm a fool, fool, fool for you. Il giovane, allora anzi giovanissimo, George Jones. George Jones dal Texas. Lo abbiamo ascoltato con Tall Tall Trees, era fine anni 50, una canzone ripresa recentemente da Alan Jackson. 23.47, siete all'ascolto di Country Skyline, l'appuntamento settimanale con la country music e la roots music da Rock FM. Maurizio Faulisi è tornato proprio oggi dopo la pausa estiva. Un mese lontano da questo microfono, un mese lontano dagli ascoltatori appassionati di country music. Non so quanti siate, ma certo che ce n'è un gruppo di appassionati fedelissimi che non se ne perde una. E quindi un caro saluto a quel covo che è la trattoria Garga di Firenze, dove si nasconde un certo Daniele, appassionatissimo di country music, che davvero lui non se ne perde una. E io saluto tutti quanti voi calorosamente, ringrazio tutti quelli che mi stanno lanciando il bentornato. Il numero di sms è 338-6171-300. E noi andiamo avanti con un brano strumentale, un classico dell'old time music, ma anche del bluegrass, ma anche della chitarra finger picking. Sì, in versione finger picking l'abbiamo ascoltata da Doc Watson, che la fa in una maniera strepitosa. E no che Chet Atkins la faccia tanto peggio, Black Mountain Rag. Thank you. 1952, strepitoso, davvero strepitoso, era Chet Atkins con la sua versione di Black Mountain Reggae. Lui la suonava in versione finger picking. Ho citato poco fa Doc Watson, beh, Doc Watson la suonava invece flat picking, ovvero con il plettro. Queste erano le dita arpeggiate, l'arpeggio di Chet Atkins con Black Mountain Reggae. Bene, bene, andiamo avanti, stiamo ascoltando qualcosa di piuttosto decisamente, anzi tradizionale, e questa sera stiamo variando non poco dal new country al country rock, agli artisti rock degli anni 70 che hanno preso, che sono stati particolarmente influenzati in un certo periodo dalla country music. Poi siamo passati al country più tradizionale, classico degli anni 40-50. E adesso dritti dritti laggiù verso la Louisiana a bagnarci i piedi nelle paludi e nella umida Louisiana. Ci ascoltiamo la musica che è caratteristica, certo c'è il rhythm and blues, c'è lo zydeco, ma c'è anche il Cajun o Cajun, se vogliamo essere davvero fedeli anche alla pronuncia francofona di quei luoghi. Uno dei musicisti, un musicista veramente fortunato è stato Michael Doucet. Fortunato perché ha avuto la fortuna appunto di essere in qualche maniera, come dire, essere nato con un gran talento, il talento di essere un grande musicista, violinista, accordeonista, anche arrangiatore, ma non solo, è stato fortunato perché ha avuto anche la grande sensibilità e la fantasia e la curiosità, e quindi si è dimostrato essere, nonostante ami e non poco la musica tradizionale, si è dimostrato essere uno dei musicisti più innovativi nell'ambito del suo genere musicale preferito, ovvero il Cajun. Ma le fortune non sono mai abbastanza, ha avuto persino la fortuna di avere un fratello bravo quasi quanto lui. È vero, un fratello, tu che sei violinista, avere in casa un fratello che suona bene la chitarra, insomma, voi sapete, voi che avete il vostro gruppo di rock and roll, sapete benissimo quanto è noioso mettere insieme le prove. Invece basta chiamare il fratello che è nell'altra stanza, lui arriva con la chitarra, tu imbracci il violino e vai che parte, e vai che parte, e vai che parte, o non parte. Eccolo qua. Gran tasso. Questo è Michael Doucet con il chitarrista fratello David. We'll be right back. musica della Louisiana. Cos'è, funky questo? No, questo è un mandolino. Ma come lo suona Sam Bush il mandolino? Nessun altro. E Sam Bush con il suo mandolino davvero fa funky, ma fa anche reggae, fa anche blues, fa anche hard rock e fa anche del vecchio, sano, meraviglioso bluegrass. E questo pezzo, uscito da Laps in Seven, l'ultimo album di Sam Bush, brano intitolato Bringing in the Georgia Mail, è dedicato a Antlon. Che musica, ragazzi, che musica, ragazzi. È la musica di Country Skyline, che si conclude qui. No, no, c'è tempo ancora per una canzone, non prima di avervi salutato e per avervi ringraziato e per i messaggi di bentornato, e li ho tanto apprezzati. E e voglio farvi ascoltare in chiusura una canzone tratta da un disco di un amico mio. Qui non ci sono favoritismi di sorta, qui c'è buona musica, e siccome mi capita, ho la fortuna di avere amici che incidono delle belle cose, allora perché non rendere partecipi tutta la popolazione di Rock FM? Ruben Minuto, si chiama Ruben Minuto, un cantante musicista dell'area di Milano che inciso finalmente dopo tanto troppo tempo di carriera. È un factotum quest'uomo, questo è, incide, cioè canta e suona qualunque genere musicale, l'importante è che si tratti di buona musica e lui se ne intende di buona musica, dalla bluegrass al blues, dal rock al soul, dal rock sudista a certo country, come la canzone che vado a presentarvi, tratta dal suo album principalmente blues, ironicamente intitolato I Hate to Sing the Blues, Ruben Minuto con i suoi Good Old Manners. Ma in realtà non c'è solo blues in questo album, in questo disco davvero molto bello, vi consiglierei tanto di acquistarlo, ma non credo che sia così semplice trovarlo nei negozi. Ma certamente se entrate nel sito di www.rubenminuto.com, allora sì, sarà molto molto più easy. La canzone è scritta da lui stesso, da Ruben Minuto, Luca Tonani al basso, Mino Petruzzelli alla batteria, Michele Fazio al piano, Andrea Nazzari all'Hammond, Alberto Bonardi al tambourine. Ci fanno ascoltare No Need. E noi ci risentiamo domani sera, puntuali alle 23, GarageLand. Un abbraccio a tutti quanti voi, grazie per aver ascoltato questa prima trasmissione della stagione 2006-2007, tredicesima stagione di Country Skyline. I'm sure.